quando il sangue si fa acqua, te lo bevi e non lo cacchi. È quando il sangue si fa acqua, è troppo tardi. Parole appese a fili corallaglio, ma il peggio sono io. Ti butto e non mi faccio problemi, odiamo la gente, facce tristi, facce contente. Io ascoltami, voglio che mi senti. Dispiace anche a me, ahimè, e in mente gli anni elevati a cosa giovano i voti. Dispiace anche a me, ahimè, e in mente gli anni elevati a cosa giovano i voti. Un viaggio per i devoti, ma godi come godi. Orgasmi che corrono nei loro vuoti, ma dall'idea allo stress io non capisco il compromesso giusto. Priorità latenti, attenti, tutti attenti ai propri tornaconti e pochi danni. Con quest'occhio a Cristo e l'altra a San Giovanni. Con quest'occhio a Cristo e l'altra a San Giovanni. Ma ho tre male minori, ma ho dimmi quali vari scegli. Chiuso dentro scatola in vetro con i sigilli a smerigli. Ferite senza tagli, pugni su pochi che oggi piangono, ma che lamento a fare ad orecchie che non sentono. Scambi e sbagli soggetti, come la metti la meglio. Resta un po' che tu ti muovi. Ti muovi è come se ti muovi, sì ti muovi col concetto della ruota. Ma la ruota gira ma non gira mai sullo stesso centro, gira come se gira. Hai capito? Le geometrie dell'unico io unico. E mi riparo dietro un palo di merda che svago. Priorità o ripiego, ego contro ego. Ortis Jacobo di Timo Chierico. Ma quando il sangue si fa acqua, ma quando il sangue si fa acqua, te lo bevi e non lo caghi. Quando il sangue si fa acqua, è troppo tardi. Figli del progresso, esuli dal passato. Questo è giusto, ma quest'altro è sbagliato. Dopodiché qualcosa non funziona, l'aria si fa strana, o la situazione incombe. Io su cui bevi me, la situazione incombe su cui bevi me. E su cui bevi te, o dal mondo delle idee. Paranoia e stress, paranoia e stress, paranoia e stress.